sopra, e gli faccio la piastrina in acciaio sotto per quel motivo lì, almeno la faccio fare la fabbro, prendo una di quelle pentole in acciaio, gli faccio fare la forma uguale, i stessi furi, non faccio altro che furi, riagganciarsela e almeno è tranquilla, capito? Però cioè se tu vuoi cambiare fra un anno l'antenna, rimettere, cioè se vuoi rimettere la mantova, non prendere nemmeno di energia Antonio, a meno che tu non la voglia tenere poi di scorta, se usate la un annetto, roba del genere, e poi rimettere la mantova. Perciò ti avevo detto, se volevi la Venom in prestito, tanto è nuova, l'abbiamo proprio testata dal profeta, c'ha tre radialini solo, e quelle strane mezz'onda con tre radialini, non capisco i radialini cosa ci azzecchino, però se l'hanno fatta, forse hanno accorciato l'antenna e i radiali gli abbassano la, come si dice, l'angolo di irradiazione, così è. Eia, sentate per quello. Infatti Marco, no, la tengo la mia 27 stelle, intanto una volta che mi metto la mano va, la lascio a Giovanna, capito, la lascio sopra piazzata, dicendo tu li compri il capo delle 10.58, glielo scendo direttamente in casa, glielo scendo a casa sua, così lo è, intanto lei il palacchino ce l'ha, a me lo usa. Perché non ti fai una canna da pesca invece, Antonè, che matte, la fai come la mia? Ho regalato la canna da pesca, io te lo ricordo, ho regalato a Taxilello, l'ho regalata, insieme a quel baracchino che avevi comprato tu, cazzo, chissà, quella specie di caldaro, cazzo, come baracchino, gli ho regalato l'alimentatore, gli ho regalato la canna da pesca e il cavo. Quindi c'ha tutto, c'ha capito, c'è la testata di campagna penso. Ma la fai come la Game Master proprio, la canna da pesca proprio fatta a dipolo verticale con l'alimentazione giù, come lo fa, come c'ho l'antenna io, ti fai una Game Master, avanti in batti. Io faccio grano di pannuta, se voglio mi costruisco la cosa, non è che ci voglia molto la bazooka, capito? Basta che prendo un cavo elettrico, 5 metri 50 di cavo, un tubo di plastica, poi li metto un pezzo di metallo sotto, compro le staffettine, quelle per ringhiera, è fatta l'antenna, non è che ci voglia questo granché a me. E pompa un bel, l'avevo fatta a Nicco, e c'era tuttora Nicco con l'antenna lì, c'ha quella lì e c'ha addirittura, gli avevo regalato l'antenna della barca, quella bianca, c'era al circolo, c'era. Io pure ce l'avevo quella bianca della barca, della 27, era bella quella che c'avevo io, solo che la manna che... Tu immaginate che quella, la bazooka senza massa, senza nulla, messa nel circolo di Nicco, all'interno, qua arrivava 9.20, arrivava a casa, figurati, addirittura anche a Claudio arrivava quel segnale, e anche a tanta gente, arrivava mi sembra anche a produttore, se non sono d'altro, messa all'interno del circolo, sopra le cassette della birra, di plastica. Antonè, guarda che ho messo in vendita il 440, ho messo in vendita, se serve a qualcuno, perché non funziona solo in AM, in 27, in tutte le altre bande è perfetto, chissà cosa mala sorte c'ha, e me lo voglio vendere come non funzionante, da, lo do a poco prezzo, così almeno me ne libero. Scusa, non ti conviene controllartelo, c'è la via, no, è tutto un sistema, non è che ci voglia questo granché, no? O è commutatore che vuole pulito, oppure il relè, c'è poco da, già lo sai che c'è, che monta il relè, il tempo di monta, ogni banda 10, 20, 40, eccetera, eccetera, c'è il relè. faccia, è logico che non ti funziona. Ma se non esce la M, sta tranquillo che il selettore come si chiama, capito? Quindi no, Adriano, magari una cazzata te lo sistema subito, non ci vuole questo granché, no? Non è a tempo da perdere, Adriano ha detto, se no me l'avrebbe aggiustato, ma non ha più passione per queste cose. La famiglia di Filippo. Ma la strumentazione poi l'aveva presa o no? No, gli manca anche la strumentazione, non ne ha più velleità di fare queste cose, se non già è bravo lui, ma no, non me ne aggiusta, capito? Non ne ha più voglia, capito? Se no già me l'avrei fatto aggiustare, me l'avrei tenuto così, ma tanto anch'io ho perso la voglia, tutto quanto, no, non me ne sbatte nulla, me lo vendo e boh. Secondo me l'avrei cambiato il selettore e basta, capito? Anche come si chiamano, i palazzini c'erano a volte con difetto limite, quelli nuovi specialmente quelli che stanno facendo, c'erano problemi di selettore, a me mi aveva fatto il difetto una volta, mi aveva fatto. Quando cambiavi dalla M, FM eccetera eccetera, a volte non funzionava. L'ho dovuto aprire il selettore, l'ho messo il CDC, adesso si è funzionato. Ma io ho perso anche la passione, mi guarda, non me ne ha fatti nulla. Poi non ne ho mai aperto di quegli apparecchi, mai li aprirò, quindi non me ne sbatte nulla. Chi lo vuole se lo prende, se lo può aggiustare se lo aggiusta, e se non ciccia, cosa vuoi dire? Io lo vendo. L'ho già messo in vendita, e gli hanno detto il difetto che ha, l'ho scritto il difetto che ha, non lo vendo come funzionante, no? Capito? Ho capito. Vabbè. Chiedo se qualcuno lo vuole, magari se lo può pigliare Luca Flipper, lui ce l'ha 440, se l'aveva riparato uno, l'aveva comprato che era non funzionante e se l'ha sistemato, quindi già ce l'ha lui la passione di fare queste cose, magari se lo compra lui. E chi è che me lo compra? Sto pigliando lo scooter, sto passando, 50 euro me lo porto via. Mi dai la moto in cambio e te lo sto dando subito. C'ha l'accordatore perfetto, allora vuol dire che accorda prima degli altri, perché l'ho resettato e adesso non ne ha più memoria di accordatura di altre frequenze, quindi è un mostro. C'aveva dei picchi allucinanti questo qui. È veramente di lusso, però a me non me ne frega più nulla, non ne voglio aggiustare, chissà quanto ci vuole aggiustarlo, quindi non mi conviene neanche a spedirlo in continente, chissà quanto vogliono per aggiustarlo, se lo spedisce in continente lo aggiustano, mio, sa di grido. Io naturalmente sto scherzando, è Natalino, a me non serve. Peccato, il ricevitore però è bello. Mi ricordo che l'R5000 della Kenwood, il ricevitore, aveva grosso modo lo stesso aspetto del 440, ecco perché mi piaceva molto quel ricevitore là. Però non ne trovavi, se ne trovavi te lo facevano pagare molto ma molto caro. Sì, un occhio della testa te lo fanno pagare. Sembra un 440 proprio l'R5000. Quindi quello mi sarebbe piaciuto a tenerlo come ricevitore, ma non ho antenne dove lo attacco, quindi ecco perché lo sto vendendo, perché ho questa antenna per qua e bu. Se voglio monitorare il 10 per esempio, quando sono sulla 3.5 non lo posso fare perché non ho antenna dove attaccarlo, ce l'ho l'omologato qua per poter monitorare il 10 quando sono sulla 3.5. Ho messo solo l'antenna di qua e quella della TV, perché anche quella mi hanno sabotato e me l'ho dovuta comprare nuova. Sì, per ricevere e mattare un filo di lunghezza random. E come facevo io per quell'XH adatta, no? Loro ti danno quella specie di piccolo long wire, senza long, un wire, praticamente sono 2,5-3 di cavo. Io lo mettevo a casa un po' così come capitava, che non rimanesse però attaccato a terra, no? Un po' sollevato la terra e ricevevo i cibi di Sassari. Capito, quando ero in camera mia, per esempio, che non volevo stare qua, ricevevo la 27, però solo quelle di Sassari sentivo, con quel cavo lì. Quel cavettino lì. E mi colpisce molto il fatto che ce l'avevo quello di questa qui, solo che non. Due anni, da quando hai vissuto l'attesa del non so che fine ha fatto. Che sono appuntamenti fondamentali. Allora, pensa che a me è rimasto la coppia del Texun, quel piccolo long wire. Ti spiego. Quando io avevo smarrito del Texun 660, quel cavettino lì, che aveva alla fine una mollettina e lo potevi agganciare a quello che volevi, un rametto, una tenda, quello che volevi. Mentre invece questo dell'XHDHTAN non ha nulla, no? E a parte che quello del Texun era anche un po' più lungo, erano tipo 4 metri buoni, quindi era un po' migliore. E qua ti stavo dicendo, sì, io l'avevo smarrito un periodo, allora l'avevo riordinato il cavetto del Texun, l'antenino long wire, tra virgolette, poi ho ritrovato quello vecchio, quindi io ne ho uno con l'attacco sempre jack mono 3.5, che ha quella mollettina particolare, lo aggancio dritto, in più mi pare che aveva la spola, la bobina, tu lo avvolgevi lungo l'anima di plastica, no? In modo da tenerlo ordinato. Lo so. È che non ricevo neanche con la PLC 800 che ho sul frigorifero, non ricevo un cavolo, perché la base non è la sua, già me l'ha detto che me l'ha da Franco la base di quell'antenna, vediamo se ricevo con quella, perché mi interesserebbe ricevere almeno quelli di Sassari, perché mi ricordo che con quella che avevo nella macchina, la PLC 800, trasmettevo pure, la mettevo sul frigorifero e trasmettevo pure, non solo di ricevere. E sai cos'è? Anche il punto, quello è un punto particolare, sei un po' più in basso dei normali palazzi, poi le case sono tutte attaccate lì, no? Per esempio io qua in macchina ricevevo qualcosa con l'antenna da macchina, ma l'attenuazione era tantissima comunque, me ne accorgevo anch'io. Ma io quelli di Sassari ricevevo e trasmettevo con quella che ho in macchina, l'antenna. Adesso se mi dà Franco la base di quell'antenna, la prendo, la smonto e guardo un po' cosa è successo, perché l'ho misurata, è tutto a posto, però la base non è la sua e penso che sia quello, è per quello che non ricevo. Poi naturalmente io quando dico Sassari, con quel cavetto ricevo Sassari con l'XH data, ma quando intendo Sassari intendo le stazioni più forti, non c'è, voi vicini, per esempio i punti non lo copiavo, certe zone della Tedolce, sai che modulo su 23, certi non arrivavano proprio, certi forti e certi non arrivavano. E vabbè, poi vabbè, adesso c'è il ponteggio, non passa nulla qua e siamo schermati per ora. E il fatto che fuori non la voglio mettere io l'antenna, perché c'ho anche la multibanda, per quell'XData sarebbe stata di lusso, veramente di lusso, quell'antenna multibanda che ho, quella Pro X1, ma non la posso mettere, che mi dicono che disturbo. No, assolutamente no. Se la uso per ricevere non posso disturbare, però quello dell'ultimo piano, come ha visto quell'antenna, subito mi ha detto che stavo disturbando. Vabbè, però qua non è più nemmeno quieto vivere, lì è a subire. Io le avrei lasciate, ho detto, guarda che riceve solo, è un pezzo di ferro, non può disturbare. Vai da uno psichiatra bravo. Cosa? Veda, bisogna dire, la mare è bombica ieri. E il fatto che non mi va di bisticciare. Cosa vai a bisticciare? Tanto ti procurano guai e basta. Mi hanno fatto un casino di rinunce, ma hanno fatto. Secondo la zia, che me l'hanno detto i vigili del fuoco, ci sono un sacco di denunce, ci sono per questa storia dei disturbi. Adesso però sono con l'antenna che è più alta di tutte le televisioni, non disturbo nessuno, poi con due passi cosa vuoi disturbare? Sì, ma infatti lì quando è venuto a controllare le scaposte doveva andare anche nelle abitazioni di chi ha chiamato e controllare e verificare l'impianto d'antenna suo che fosse a posto, non lo fanno, capito? Sì. Già si pagano 600 euro se chiamano l'Ettoradio, va. Quanto pagano? 600 euro per fare l'intervento vogliono. Ti credi sia Bobo? Qui adesso mi sembra che non esiste più l'Ettoradio. Però non credo, Anzalì, perché ti pare che questi non si cambiano un'antenna TV da 50 euro? E vanno a spendere 600 per un intervento d'Ettoradio, ma non esiste. Perché tentano di fartela togliere a te l'antenna, non hai capito l'ignoranza di questa gente. Mamma mia, per carità, guarda. Antoneddu, anche Antonello è stato mattugiato da amministratori vari, o condomini vari, o sbaglio Antonello? Sì, ma come gli ha dato a Giovanni Rotondo a farsi mettere la mano in testa da padre Pio? Come? Cos'è successo? Che gli ha sei andato, ho detto a San Giovanni Rotondo da padre Pio, ho detto a abitare qui, la vedete lui che è fuggito. Ci ha lasciato un figlio con negozio e basta. Quindi adesso il capocondomino nuovo che abbiamo, questo già è molto più in gamba. Se no non avete installato questa antenna delle V e delle U, no? La prima cosa che ho fatto è quella. Lo salito sopra, ho fatto i buchi, davanti a tutti, non mi ha tagliato proprio niente, e mi sono installato l'antenna. Ma non l'ho vista, è quell'antenna, è la mia, che ho detto, perché il problema c'è. Cioè, problemi, gli ho detto, te li risolvi da solo, a me non me ne frega niente. Io posso installare quello che voglio. Poi non ci vuole più concessione né niente, gli ho detto. Quindi adesso ve la prendete in culo, voi e cosa, gli ho detto. E il condominio. Adesso fai certo quello che mi pare di piace soprattutto. Quello che mi piace di Pomponio è che è molto diplomatico, natalizio. E infatti, io sono stato pure sfortunato, cazzo, ci ho rimesso un rosmetro da 150 euro, un Daiwa, poi ci ho rimesso il baracchino e ho pagato la multa e più mi volevano portare via anche l'alimentatore, meno male che era marcato CE, se no me l'avrebbero portato via. Era appena uscita la legge, io non ne sapevo, quando sono venuti mi hanno trovato in fallo. Dovevi fare come ho fatto io, andare lì in qualche negozio alla UPI, prendere la targhetta di omologazione e avessi infilato quella dietro. Ma se c'era un cinese che vedeva bollini CE online, bollini CE, quelli, non quello con la CE là è distante, vicino voglio dire, quelli con la CE è distante, proprio le copie da applicare su quello che volevi, i delinquenti cinesi che... Vabbè, purtroppo sono stato sfortunato perché l'apparecchio era omologato per la vecchia legge, però siccome non era marcato CE me l'hanno sequestrato. C'avevo quel rosmetro bello amproso, ragazzo, ad aghi incrociati, e me ne avevi sequestrato, 150 euro l'avevo pagato. Sì, vabbè, ma quella bevi, sai, andava a fare... Allora, se me l'hanno sequestrato, perché non era marcato CE? Non se l'abbiamo tenuto loro, siamo venduto, il discorso è quello, già lo sai, no? Come funzionano le cose. Addirittura pensi quello? Mi conviene fare di sequestro come aveva fatto Mario. Mario lo ho detto immediatamente io. Ho detto guarda c'è questo foglio qua, fate la copia e va direttamente, gli ho detto e fai di sequestro. E allora se gli ha dato la roba. Sì, comunque sì, il sequestro non è una confisca, quindi il sequestro è una cosa credo temporanea, ma può essere restituito indietro il bene, la confisca è definitiva, non so poi, vabbè io non non ne capisco di questa roba, ci vuole qualcuno che è più dentro. Vabbè, sequestrato l'hanno, è buono la roba. Mi hanno messo la multa, mi ha fatto il verbale sia all'escorradio che alla polizia, mi hanno fatto due verbali, capito? Anche se si sono accorti che non ero io che disturbavo, perché non disturbavo con l'apparecchio omologato che avevo. Cosa disturbavo? Mi hanno controllato tutti i canali della TV, mi hanno fatto mettere la portante, hanno salito l'analizzatore di spettro, hanno salito l'antenna e risultava che non stavo disturbando, quindi e ho pagato poco, meno male, perché sennò la multa era 600 euro. Vabbè, lì era solo la multina perché non era CIE l'apparato, però vedi, le emissioni, come abbiamo sempre saputo, le emissioni tue erano a norma, da te non disturbavi, quindi è stata una riconferma, capito, di quello che già sapevamo. Io hanno controllato tutto proprio, non disturbavo, gli avranno detto andare a fanculo a quello là che mi ha denunciato, quelli là, ma mi denunciato, mi hanno fatto un bel di denuncia e forse anche per quello che se vado a Cagliari a dare l'esame non me ne danno mai, pazienza per quel motivo lì. No, è la scusa, di la verità Natali, che non hai studiato, eri un asino e ti hanno bocciato per quello, di la verità. Che sono un asino, lo so, in diretta naturalmente. Anzi, Antonio Natalino ha fatto anche, ha seguito quel corso lì, cioè, no, si vedeva che se a uno non gliene frega niente non andava là, in quella sede. E infatti, l'hanno data gente che non capiva manco dove stava di casa, non sapeva, e quando lo sento, guarda, mi vengono i nervi. Dice che gli piacevano le donne, che gli piaceva andare al mare a lui invece di studiare. E tu è passato, come si spiega? La stabilità ci ha protetto, adesso siete separati come siamo fino in 27, ognuno per i fatti suoi, cioè in pratica quando avete pigliato il patentino per parlare da solo, fare di ex, solo per quello l'avete potuto pigliare, ma non per altro. E poi siamo veramente propri, veri e propri che non ce n'è, ognuno per i fatti suoi, capito? Sì, ho detto, mi sto in 27, non me ne sbatte nulla, infatti, proprio perché non ho altre antenne, prendo e mi sto vendendo il 440, me li mangio quei soldi. In quel momento mi credete. Uno scooter ti prendi di quelli per invalidi, tanto già si trova 200-300 euro, uno scooterino, e te lo metti dentro il portone, te lo agganci alla ringhiera con la catena e l'occhetto, che catena, chi te lo prende? Nessuno. Così l'indomani ne trovo due. Cazzo, a Salimone ne ha pure a Mimì. Ah, dove toccano? Guarda che c'è. Ma perché da dentro? Di quelli UFO e Cobite. Capito? C'è uno al monte in via Gazzanelle, in quelle palazzine in Canada. E lo parcheggia fuori lui, non l'avevo mai toccato. Capito? Non se ne fanno niente di quegli scooterini, anche perché se te lo fregano è l'unico che ce l'ha, l'unico che ce l'abbia, se te lo rubano, se lo vedi in giro, lo perseguiti, lo picchi e lo lasci in terra, non ci vuole molto. No, è qua, se ne hanno rubato la bicicletta al dottore, al mio vicino, un quadro dal portone mio si hanno portato via, che l'ho visto dalle telecamere, però me ne sono fregato perché non era mio, ma lascia perdere, va. Adesso sono andato stamattina a ritirarmi il corso d'arme, non è pronto, un preso. Quando prima me la viene dato in una guida, mi sa tanto che me lo negano, mi verrai, per quello di inizio. Penso che glielo dia, non è per caccia, va bene. tanto già con quelli che ci sono di vicino a me, basta che ne spari uno, l'ho preso per cinghiale le luci, tanto si passano vicino ai cinghiali lì, già lo sai, ci sono i giardinetti. Lei sapeva che da lì un... Ah, quindi hanno aperto il portone, ma voi lo tenete chiuso, no? Cos'è? Che passano spallate e si apre, così è? Aperto lo tenevamo, era di quello dell'ultimo piano quel quadro, ce l'hanno portato via, sono entrati in due e ce l'hanno portato via. Minchia, non fa lasciare niente, no. Se lo attacchi alla ringhiera si portano via anche la ringhiera, oltre che il mezzo. Guarda, non fa. Hanno rotto la moto al mio dirimpettaio. Hanno rotto. Gli hanno cascinato il lucchetto e non sono riusciti a aprirlo, meno male. Gli hanno rotto l'affare della sella. Ui. Lasciamo perdere, qua siamo nel Bronx. Noi dicevamo a Latte Dolce che erano nel Bronx. Mi pare che il Bronx è in Oggi. Sì, sì, te l'ho detto, la situazione è peggiorata anche, anche io anche passando in corso Trinità vedo questo via vai di queste risorse, no? Così, con una faccia poi da schiaffi. Sì, ma poi il cazzo illusi, se tu li vedi, guarda, non si può descrivere. Se gli è avvicinato a uno, se gli è avvicinato uno a Adriano e gli ha detto se voleva la cocaina, ma dimmi tu. Siamo vicini a terra. Sì, sì, sì, magari ce la tolgono dalla bocca, lo sai che ci ha tolte loro per non farcela trovare addosso, si tengono queste palline di fatte di cellophane, no, d'omopac, quelle cose di cellophane, e le tengono sotto la lingua, che schifo, cioè, quella roba si aspira col naso, è roba che si è ottenuta in bocca, se non nelle mutande pure mi, immagina che a Frori. Marco, non mi ci far pensare. Odore di selvatico. Pucci, pucci, pucci. Tonello già lo conosce l'odore di selvatico che era fissato lì al corso con queste negre, amiche sue, vero Antonello? O brasiliane erano? Vabbè, sempre nere sono. Oh, yeah, yeah. Santa Maria. Diversamente bianchi sono. C'è qualcosa che non torna quando... Quelle sono le preziosissime risorse della Boldrini. E allora, si deve abbigliare da casa Giulia Edda, abbiamo fatto meglio. Meno male, fra un po' ne partono un po' in Albania, li mandiamo a svernare a questa gente. Se vorrebbero mandare quasi l'esercito al corso lì al centro, la polizia sì, volevano rinforzare le pattuglie, comunque la presenza proprio lì in loco e forse anche qualche elemento dell'esercito, capito, per tenerli a bada questi qua. Ehi, se ti sto dicendo, Antonio fa la fainè più buona di Sassari, eh? Beh, io non ne ho potuto mangiare perché mia moglie teme andare da quelle parti a prendermi la fainè, perché io non posso camminare, se no sarei andato io, perché è troppo lontano e subito mi viene il dolore alla gamba a me. E beh, guarda, mia moglie teme, a dire la verità, e ha ragione, perché vai e fidati tu lì. Beh, dille di portarsi almeno di quegli spray al peperoncino, che sia di marca buona però, se succede qualcosa di strano almeno, io l'ho provato su me stesso e ti assicuro che è terrificante, ma in misura ridotta era come se mille aghi ti trafiggessero gli occhi, una cosa deleteria. E infatti mi sa che li compro due, uno a me e uno a mia moglie, così glielo spruzzo in faccia di crepa. E quando loro si piegano a toccarsi gli occhi, un bel calcio nei coglioni, allora sai come lo fa? Nuovo, nuovo. Allora, se li compri, guarda che ci sono anche online, compra quelli da 2 milioni di Scoville, sempre legali, invece ci sono quelli più economici che sono da 800.000 Scoville, oppure massimo 1 milione, che però fanno poco, fanno di meno, capito? Invece con 2 milioni si sei sicuro che per mezz'ora quello è cieco e non può fare niente, manco scappare. E infatti, così ne scende il pantalone, me lo faccio pure. Di quello che accadeva in questa brevissima. Guarda, marca TV1000, ti mando le foto dopo il sito. TV1000, vabbè, dopo, la documentazione dopo. Mandamelo via WhatsApp, che gira gira me li ordino due, uno a me e uno a mia moglie, che poi ridiamo, perché qua non c'è da fidarsi. Dopo adesso, vabbè, il telefono non ce l'ho manco qua, dopo ti mando il link. E già è roba utile comunque, si spera di non serva mai, perché dopo tutto, vabbè, se uno arriva alle spalle è finita, cioè non c'è né spray né menata che tenga, vabbè, le donne soprattutto. Ma poi sono dei tagliagole, quelli vengono col coltello e ti pugnalano, non hai capito? Quelli lì, comunque è sempre meglio averlo, se vedi che ti stanno aggredendo, che ti stanno prendendo a male parole, perché sono anche prepotenti, gli spruzzi quello lì, vedrai che ne rimasta tutta la gana, e gli tiro una bella susa, lo lasci cazzo crepato in terra, a calci, lo devi prendere a calci nelle costole, in modo da farlo nuovo nuovo, che quelle non si possono ingessare, cazzo gli fanno male cane. Insomma, ho tutto o niente, da. Antone si è rientrato e Antonello deve essere indaffarato con Simona. E infatti, e così bisogna fare, non è che ci devi limitare a spruzzarli quell'affare, no, lo devi picchiare a sangue proprio, in modo che se ne ricordi vita naturale durante di quello che gli è successo, perché quando gli passa le prezze di autoarticolato me ne è saltato addosso. No, ma così passi dalla parte del torto, sai che quello va usato così, e se dovessi subire un'aggressione va usato contro l'aggressore, dopodiché non puoi infierire, devi chiamare le forze dell'ordine, se no passi torto tu. No, invece io lo dago sanguinone in terra, lo dago, e me ne vado, se mi trovano domani. Ma lui, se si riprende, può dire, guarda, tal dei tali mi ha aggredito, prima mi ha neutralizzato con uno spray e poi mi ha gonfiato di botte, capito? Come fa a sapere chi sono? Perché non me lo devi far, Gaccio? No, ma se magari uno ti conosce di vista, no, che abiti lì, capito? Che ti conosce di vista, dice, mi è quello che abita lì, primo piano, già hai capito, no? Ehi, ma non s'attrivi più, perché io lo faccio nuovo nuovo, lo faccio. Ti sto dicendo, chi non s'attrivi più, se ne fugge al paese suo. Cazzo, questi picchiano lì. Non convene. Se non torna in 40, con tutta la tribù torna. Ovvia. L'ha visto in Brasile quelli organi statali o parastatali, quelli che mandano nelle favelas, gli squadroni della morte, se fanno paura, interrompono in sommossa, incappucciati alle volte, stracarichi di armi, e poi c'hanno sempre questi teschi, tipo la fascia sul basso col teschio, le sue incrociate, mamma mia. Ma poi cazzo, non è in casa sua, cazzo, gli spruzzano lo spray, gli tirano una bella sussa e viene a rompermi intorno alle balle, allora cazzo andiamo in deja, si callo. Sì, ma ricorda che quelli vivendo così i problemi non se ne mettono, capito? Non è il modo di vivere loro, non è civile, quindi agiscono di conseguenza. Quelli girano, se si sono zuffati anche con macete, e mi pare prima della sparatoria era spuntato anche con macete in strada o roba del genere, ho letto. Ti rendi conto? Sì, sono dei tagliagole, già lo so. Però, cazzo, io ho la pistola, stiamo attenti, a me, cazzo, se mi aggrediscono hanno finito, dice ai nonni. Sempre così può finire, eh? Oia, comunque vedi, sono le 6 quasi, non è 31, adesso davvero mi accendo il computer, dai, che sennò va a finire che non combino mai nulla lì, da quella devo stampare anche le ricevute, un bel po' di roba devo fare, dai. ok, resta lì. E ci sentiamo, vediamo se entra Antonello, se entra qualcuno modulabo, io per adesso stacco, che sto anche asciugando. E fa così, da. Ci sentiamo alle prossime. Speriamo che entri qualcuno stasera. Al limite anche al 12 o al 23. Ogni tanto qualcuno entra, non sempre però, eh. Ehi, vabbè. Che ora sono le 6 meno 10 e ancora ce n'è tempo. Speriamo che entri qualcuno, se no vuol dire che finiamo il tutto. Poi vabbè, adesso ancora è presto, però già stanno mettendo in qualche negozio, sta abbellendo le vetrine, mettendo magari festoni, luminarie, nei negozi di giappanettoni, pandoro, tutte quelle cose del Natale, capito? C'è già nell'aria l'aria ipocrita del Natale. E io esco solo quando c'ho bisogno di uscire, quindi non li ho manco visti questi negozi, figurati. Vabbè, da domani vuol dire ci facciamo la passeggiata mattutina, ci facciamo, perché mi hanno detto di camminare. A me quel chirurgo mi ha detto, lì cammini, quando gli viene il dolore si ferma e come gli passa torna a camminare. Ma dico di così, va, prova a fare così, se mi basta che chiamare a Giugi, perché gatta, mi ricordo che raramente quando andavo a caccia mi seguiva la gente, di quanto camminavo svelto. Ti metto la donna, capito, con l'attrezzo fuori e ti persegui, da vedere se cammini. E così anche le donne, cazzo, mi perseguono, se metto l'attrezzo fuori, guai. Allora, per carità, per Allah Akbar, vedrai come te ne fuggi. Ti viene abbandonato, per carità, cazzo. Ah, che cosa, il circolo, la luce, la cazzo, non ci sta parlando manco un cane, ho visto. Sono passato un giorno, cioè, eravamo io e il vecchietto, e un altro, boh, sto solo in tre, eravamo. E andava Antonella, da, me ne passo il QRT, tanto, i noghi, se non entra qualcuno, adesso mi faccio un bel caffè, e poi si vedrà. Tanto i noghi hanno messo la fantasia di giganti e non vedi, sei un canale di molti questo, noi tre solo c'eravamo stasera. Ah, è entrato Manuele e siccome c'erano di tubi e non lo sentivamo, se n'è andato anche lui. Vabbè, là. Ci sentiamo alle prossime, Antonella, adesso me ne passo in quel retino per un po', poi riaccendo. Va bene, ciao Natale, ci sentiamo, saluto anche a... Allora, a tutti, lui, ci sentiamo al limite del dopo, no? Ciao a tutte e due, ciao anche quelle qui da parte mia, dai, poi più tardi si vedrà. Ok, ciao Antone, ciao. Io, ciao, a dopo, da. Ciao Marco, ciao anche a te, grazie per le quattro chiacchiere a tutti e due e a risentirci alle prossime, mi ha fatto piacere. Aspetta, non te ne andare, un attimo, una cosa Antonello devo dire. Antone, prima avevi citato la bazooka, pensa che io ce l'avevo pronta, buttata lo stesso, non buttata, tenuta dietro l'armadio, c'è un punto dove tengo le antenne, ho trovato di tutto, lì c'è una bazooka, solo che mi manca una gaffettina, ce ne erano due, una l'ho persa. Poi ho trovato l'antenna 2x5 ottavi monobanda per il PMR, UHF comunque, è fatta apposta per i piacetti arabile, ma è perfetta, 1-1 a 4-4-6. E poi cos'altro c'era? C'era una, come si chiama la discone, una discone che avevo tanto tempo fa, lo stesso mezzo smontata e messa da parte, tutta messa io in occhio. E più altre, no, la boomerang, la mini boomerang l'avevo data. E poi vabbè, tante antennine veicolari, VU, di tutte le misure, piccole, medie, grandi. Ci ho più antenne nei capelli ormai. Vai Antonio. sono io, viste. E la bazooka papà vuole smontata. E perché dentro c'è un pezzo di cavo di filo di rame fine, tu immaginati che se dovessi mettere di 50 watt quel coso si apre in due. E avevo messo il cavo da uno, avevo messo da due, avevo messo 5,50 m di quel cavo lì, arrotolato dentro, saldato nel piede della bazooka. Cazzo, quando l'ho provato, prima non usciva niente, te la ricordi, era quella celeste di bazooka, non era quella proprio bazooka vera e propria, era una similare, questa qui. Quando l'ho provata gli ho detto, cazzo, 1-1. Allora, l'ho usata, 2 o 3 giorni l'ho usata. Poi ti avevo detto qualcosa, ho detto, te lo piace per il baracchino, ho detto, di qua. Che altro la mandi giù, ho volato la bazooka, ho detto, c'ho la bazooka, te la regalo, e l'abbiamo regalata a lui. Quando si è messo il cavo, poi ha volato l'apparecchio, adesso mi ricordo che apparecchio che ha volato, no, l'apparecchio che aveva lui, che usava in barca, un 40 canali. E l'ha portato via al circolo e parlava tranquillamente con me, con Claudio e con gli altri. Con la bazooka messa così, non ci voleva credere Claudio. E ho detto, Claudio, non ci credi, tu vai e di lì al circolo, e detto, ti fa vedere dove l'ho piazzata. Era un demonio quella bazooka, era. Anche senza massa funzionava benissimo. Sì, mi ricordo, arrivava anche da me, certo da me arrivava più massa, non forte, però arrivava. E cosa succede Marco, che avevo tolto quel filo di rame fine e gli ho messo il cavo elettrico, l'ho messo, adesso mi ricordo, c'era 1,5 o 2 di lì. Ho visto come l'ha posizionato e le ho fatto la stessa. E l'ho avuto nel tubo di plastica. Ho visto che c'entrava tranquillamente dentro, tac, saldato il PL, piazzato un paletto via. Quando l'ho provato qui nel terrazzino, un demonio era quella bazooka. Non ci voleva credere nessuno, dice che te l'avete usato. E dove la bazooka sto usando? Ho detto. E tu se poco a poco, ho detto, le piazzo quattro radiali, vedrai, ho detto, questa funziona, ho detto, quanto la Grand Play. Sì, no, Antone. Conta che comunque l'attenuazione è tanta, anche se la metti sul tetto, sullo stesso palo, ti accorgi molto molto dell'attenuazione, cioè non è paragonabile secondo me nemmeno a un quarto d'onda full size, capito? Guarda che io, vabbè, facciamo il base, se aveva avuto un basamento di Grand Prix, l'avrei messo un basamento di Grand Prix agganciato sotto, sta tranquillo che con 4 radiali sarebbe uscita benissimo, poi già te lo ricordi quando avevo fatto con l'antenna io. Lo stilo centrale, cioè in pratica come stilo centrale ci avevo messo la Turbo 2001 con 4 stili di macchina agganciati in questa bazooka di Grand Prix. Allora se ti ricordi ero senza antenna, usavo quella per poter modulare e mi aveva ascoltato Gigi Vulcano lì vicino a Macomè, mi aveva sentito, aveva chiesto che cosa stai usando, ho detto la Turbo 2001 di letto con 4 radiali, avevo messo di palo, diciamo, due spezzoni che avevo agganciato, proprio dove c'era la canna fumaria, lì l'avevo piazzata l'antenna, e funzionava benissimo, cazzo. Figurati, a volte non vuol dire nulla, se hanno avanzato con i metri radiali, vedrai che non fa. Lì ti aiuta perché sei in alto, Antonè, sei molto in alto. Posso capire, lì anche l'antenna di macchina. L'antenna di macchina messa in alto rende più che non metterla al bordo strada, capito, all'altezza di strada. Va bene, dai, ti saluto, presto stacco, nel caso più tardi se riesco. Se no, ritenete vi salutate. Ciao a tutti, ciao. E io, ciao Marco, ci sentiamo. Ciao anche Natalino, se ancora l'ascolta. Buon caffè Natalino. Ciao a tutti e due, ciao alle cruci. Oh, avanti. Quella, buonasera. Ciao Domenico, buonasera. Ben natalizio, tu sei forse. Ah, ma se mi hai fatto un sogno, che? Sordo ti ho fatto. Eia, adesso sì che siamo un po'. Anda bene me, da là. Cappa. No, non mi ha nessuno il canale, mi muovo. Cosa pretendi? C'è il canale dei morti. È vero, me ne ho dimenticato. Sono morti e non se ne sono accorti. E allora, a quanto pare così proprio. Chiedo se buona cantata, che d'altro spazi di caffè, l'altro non so cosa, e boh, non mi male ciò. Infatti. Adesso ho messo in vendita il 440 perché è difettoso in AM e non mi va di aggiustarlo, io non me ne frega niente. Non esce in AM, in tutti gli altri posti è perfetto. Qui in 27 non va in AM, capito? Deve esserci qualche problema di commutazione. E l'avremo un anno, e sei fasciato. Sono apparati che se non stai sopra. Ah, io avevo quel 450 nuovo, guarda, proprio. E niente, l'ho dato via perché è troppo complicato per me. E l'ho venduto subito. L'ha già 200 euro, a roba non ce l'hai pigliato. E io lo do come non funzionante, là. Anche se in tutte le altre bande funziona. L'accordatore è perfetto, è perfetto in tutte le altre bande. Non è c'è solo in AM e qua in 27, nelle altre bande è perfetto. E chi se lo vuole aggiustare se lo aggiusti, io lo vendo come non funzionante. L'ho messo su subito.it e su tutti quei siti di Facebook. Ah, ho capito. Via. Andrà bene, e beh, già c'è qualcuno che già l'aggiusta, dai. Ce n'è più di uno, anzi. Per me sono troppo complicati quegli apparati. A me mi andava bene Galaxy perché mi sono detto che l'ho venduto, ma comunque fra poco me lo riacquisto, quindi non c'è problema. E infatti a me mi è passata Burlagana, tanto non venne nessuno. Perché se lo spedisci in continente se lo ritornano nuovo. Se lo ritornano. Io non ho tempo da perdere né niente, le dinami rimangono. Non compareggio più nulla mai noi. Infatti non ho manco antenne, se no me l'avrei usato come ricevitore al limite. C'ho solo l'antenna di qua e basta. Capito? Oh signor, adesso devo aggiustarmi l'antenna della macchina per poter monitorare questo canale qua. Se no magari di entra qualcuno non li intendo, di seguire un altro lupo. Andrà bene, Natali, vabbè, io ripeto, infatti non mi immagino via tutti a pressa, abbiamo il toro, non lascio un Galaxy perché tanto non mi male suo, agito più in là, adesso vediamo. Lo prenderò, però non per adesso, tutti a pressa, non lascio, che tanto il baracchino ti lascia desiderare, non mi male suo, è vero, il canale dei morti. E infatti, cosa giudicanti, dimmi lo vuoi vero. Io ho messo lo squelching pure a questo canale in modo che non sento il QRM. Se entra qualcuno di Sassari che lo sento, allora lo rispondo. Se no, infatti ho sentito fischiare. Niente, stavo spazzolando su 23, c'era Gio Maria Torre, poi è stato Marino che stava cercando a te. E Marino stava cercando. Allora passo se mi sta cercando. Aspetta, ma siamo sul 23, dai. Ok, ma sembra che ha fatto cuore di aio 23, dai. Marino. Ora, avanti sul 10, canale fantasma, hai già compreso. Tonino, Tony.